Ecco, allora direi che possiamo iniziare. Vi saluto, ringrazio di essere qui con noi e in particolare voglio ringraziare i nostri due gentili ospiti. Questa sera sono con noi Francesco Terreri, presidente dell'Associazione Microfinanza e Sviluppo Onlus, e Fabio Bonaffè, che ringrazio in particolare per chi ci ha aiutato in questo anno scolastico, tra virgolette, di conferenze, presentazioni di libri, dandoci molte indicazioni, facendoci incontrare autori e autrici, scegliendo sempre un tema che ci è molto così vicino e caro, e penso che faccia parte sempre di una mission di una biblioteca, cioè quello di scovare modalità e momenti critici di quello che può essere invece un atteggiamento sostenibile nei confronti della nostra vita, indipendentemente con degli ambiti, perché sono state molte le conferenze e questa sera ci sarà un taglio ulteriormente diverso, però l'insegna fondamentale è quella di trovare un meccanismo sostenibile per la nostra vita nel rispetto di una serie di valori. La biblioteca, per noi che ci lavoriamo, ma spero anche per il pubblico, è una fonte straordinaria, un'occasione straordinaria per tutti di conoscenza. Vogliamo ribadirlo questo aspetto, perché ce ne sono tante di istituzioni pubbliche meravigliose che possono contribuire alla nostra crescita continua per tutto l'arco della nostra vita, ma forse mai come la biblioteca è un'istituzione senza tempo, senza età e senza, diciamo, tagli particolari. Quindi anche la biblioteca provinciale vuole inserirsi in questo contesto di aiuto, di vicinanza al cittadino, e nello stesso tempo anche ci auguriamo, soprattutto negli anni a venire, anche con le nuove tecnologie, di riuscire a co-creare delle cose, dei servizi o comunque delle iniziative con i nostri utenti. E un esempio straordinario è Fabio Bonaffè, che da utente è poi stato un ispiratore e anche un promotore di tante iniziative, di tante bibliografie, di un arricchimento di raccolte della nostra biblioteca. È un saggio, lo avete anche in fondo all'entrata, dove ci siamo così scambiati due parole con alcuni di voi, perché stiamo facendo una campagna di rinnovamento della nostra newsletter. Chiaramente abbiamo bisogno dell'autorizzazione degli utenti e quindi di una firma sul modulo della privacy. Non mi dilungo, vi lascio subito la parola, ringrazio tutti voi e ricordo che la biblioteca organizza queste iniziative almeno due volte alla settimana, ecco, quindi ci sono varie occasioni di poterci di nuovo incontrare, come poi l'apertura quotidiana di tutta la nostra struttura. Grazie e buona serata e grazie ancora a voi. Bene, allora io a mia volta ringrazio la biblioteca che ci ospita, la direttrice che ci dà una grande disponibilità e i suoi collaboratori, tra cui il fotografo fastidiosissimo che mi insidierà. E naturalmente ringrazio anche Francesco Terreri, che è riuscito a ritagliare negli impegni professionali e di vita questo tempo e a dedicarci anche lo spazio per un'intervista che è venuta fuori, forse qualcuno di voi l'ha vista, sull'Alto Adige venerdì, che è un po' come dire, servire a chi questa sera, spaventato dall'inverno di maggio che incombe tutti noi da un po' di tempo, ha preferito restarsene un pochino più comodo, diciamo. E due parole su Francesco, che è un giornalista specializzato in campo economico e lavora per la testata dell'Adige di Trento ed è anche presidente dell'associazione Microfinanza e Sviluppo, che peraltro è un'associazione attiva dal 2002, quindi impegnatissima anche in interventi sia in Italia che in altri paesi, in particolare in Africa. E in questo caso è l'esempio vivente di come una competenza professionale possa anche essere spesa fuori dai seminati, come dire, più tipici, e quindi dare avvio ad attività importanti sul piano anche del volontariato. Vorrei, prima di partire, dedicare l'incontro di questa sera a tre persone. Vorrei dedicarlo perché credo che questo ci permetta di capire anche un po' che non siamo qui a celebrare un evento teorico, un po' sospeso nel pensiero. La prima persona è Antonio Megalizzi, è un ragazzo di 28 anni che è stato una delle 4 vittime, o 5, non mi ricordo, dell'attentato dell'11 dicembre a Strasburgo, dove un suo coetaneo di origini africane, credo, in pratica ha ucciso a coltellate queste persone. Antonio, tutti quanti sanno, aveva un'attività, io non l'ho conosciuto personalmente, magari invece Francesco lo conosceva, svolgeva un'attività di informazione soprattutto sull'attività dell'Europa. E siccome siamo ad un paio di settimane, anzi quasi meno, dalle elezioni europee, del Parlamento europeo, credo che la sua figura piena di interesse, di apertura mentale, possa ricordarci che anche noi dovremmo essere disponibili anche a questo tipo di importante appuntamento e interesse. Le altre due persone sono, purtroppo è una dedica in memoria, ma succede spesso. Lui era Jan Kuciak e lei era Martina Kuchnivara. Sono due, lui era giornalista di indagine ed è stato assassinato in Slovacchia, 29 anni, e lei era la fidanzata. A lui hanno sparato sul petto e a lei in testa. Questo è stato un episodio traumatico per l'opinione pubblica slovacca, che per la prima volta ha dovuto confrontarsi con la realtà della corruzione, in particolare la corruzione camorrista, se non sbaglio, o granghettista, non so, che comunque era interessata ad affari con esponenti di rilievo anche del governo slovacco. A seguito di questo ci sono state delle dimissioni e poi delle nuove elezioni. Ricordo questi due giovani che sono morti perché in realtà c'è un intreccio che collega tutto, quando noi passiamo dal pronto soccorso vediamo dei medici, degli infermieri che si danno da fare moltissimo, e dovremmo cominciare a pensare che quello che succede lì è legato strettamente a quello che succede altrove, in orizzonti molto più ampi, e che alla fine è difficile qualche volta per la nostra disinformazione, per la nostra disattenzione, mettere insieme, poter collegare. Bene. Il libro di questa sera, e non è l'unico libro, comunque il libro di questa sera è questo, Non con i miei soldi, che riprende il titolo di una campagna promossa, credo proprio da Banca Etica, la fondazione di Banca Etica. Come è fatto questo libro? Sono meno di 150 pagine, 100 di queste pagine raccontano come è fatta, come funziona la finanza e cosa non dovrebbe essere la finanza. 40 di queste pagine indicano invece le strade possibili, alternative, per costruire una finanza che sia legata alla realtà positiva dell'economia, alla capacità di essere imprenditori, alla capacità di attivare dignità umana e quindi anche una crescita economica. Il libro parte dall'asilo nido e temo che noi tutti siamo, io sicuramente sono all'asilo nido e molti di voi hanno già frequentato anche il master, però una gran parte delle persone che hanno sempre a che fare quotidianamente con l'economia sono a un livello un pochino drammatico di disinformazione. E dunque dall'asilo nido fino all'università, dove si incominciano a intravedere nuove prospettive, e poi al master. Io vi leggerò alcuni di questi passi, alcuni passi del libro che mi servono per introdurre le domande che via via farò a Francesco. E un passo a me sembra molto interessante ed è stato scritto da Andrea Baranes, che è uno degli autori, perché il libro riporta poi interventi di diversi autori. Nella vita quotidiana, dice Baranes, se prendiamo decisioni, in particolare riguardo ad acquisti, consumi, stili di vita, in base a determinati valori e convinzioni. Però nello stesso momento, con i nostri soldi, sosteniamo attività che sono in completa antitesi con questi stessi valori. Pochi anni fa, 27 milioni di italiani hanno votato un referendum per fermare il nucleare una volta per tutte. Quanti di loro, tramite i propri risparmi, stanno finanziando imprese e progetti legati al nucleare? Ancora, magari giriamo in bici, rinunciamo all'auto e abbiamo anche investito per una maggiore efficienza energetica nella nostra abitazione. Però i nostri risparmi, affidati ad un gestore finanziario, finiscono in società petrolifere che ci danno un rendimento che dipende da quante tonnellate di petrolio verranno bruciate nei prossimi anni. La domanda che ci possiamo fare è la prima domanda che avevamo anche riportato nell'intervista. Abbiamo veramente bisogno di un'educazione critica alla finanza? Grazie Fabio. Una piccola annotazione sulle persone, i ragazzi che hai ricordato prima, perché Antonio Megalizzi, che viveva in Trentino, io non lo conoscevo personalmente, anche se avevamo sentito parlare più o meno delle attività che svolgevano, però in effetti quando è successo il dramma e ci siamo resi conto, parlo dei giornalisti, che c'erano dei ragazzi che stavano facendo giornalismo in Europa, ci siamo, in un certo senso siamo saltati sulla sedia, perché in realtà non lo sapevamo davvero, pensavamo che fossero dei ragazzi che stavano facendo Erasmus, queste cose qui, e invece questi ragazzi stanno facendo i giornalisti, per lo tanto non ce ne sono altri. E Jan e la sua ragazza, che sono stati trucidati in Slovacchia, stavano facendo i giornalisti. Allora abbiamo, questo lo voglio dire da giornalista non giovanissimo ormai, abbiamo una riserva in generale di giovani, e in particolare di giovani che per esempio fanno questo lavoro di inchiesta, di giornalismo, ma poi anche di informazione, formazione, divulgazione su certi temi, di cui forse non siamo a conoscenza, forse è una riserva preziosa che faremo meglio a valorizzare di più, anche a proposito della scadenza elettorale prossima ventura. Per fortuna c'è, ma la trascuriamo probabilmente, non è la cosa che conosciamo di più, e invece è lì in prima fila, in prima linea a dare informazioni e a fare proprio quello, veniamo alla domanda di cui si parla oggi, e cioè noi oggi siamo questo libro è stato scritto, non con i soldi, se ne ce ne sono anche altri, insomma è stato scritto in modo particolare da persone che appartengono e che lavorano nel mondo della banca etica, di cui ormai credo che abbiamo sentito parlare, perché è una banca che esiste ormai, e stiamo parlando di 20 anni, quindi di un'esperienza importante, perché in effetti quando ci siamo trovati, che io ero della partita, a realizzare, a sviluppare queste nuove esperienze di economia, ma poi le altre che conoscete anche qui, il commercio personale, quindi Bolzano è una capitale per certi aspetti, sicuramente la capitale storica, diciamo, dove è nato probabilmente, e ci siamo trovati di fronte al fatto che In effetti stavamo promuovendo delle attività economiche che non erano una tradizionale beneficenza, ci sono dei poveri, dobbiamo aiutarli, era un tentativo di fare economia in un universo. Ma allora, se c'era questo tentativo, bisognava capire meglio qual era l'economia realmente esistente. E quello che è venuto fuori per molti aspetti è che tantissima gente non sapeva cosa stava realmente succedendo. Del resto poi questo ce ne accorgiamo quando scoppiano gli scandali, no? Quando migliaia di risparmiatori della Banca Popolare di Vicenza, anche qui c'è stato qualche problema qua e là, ma insomma diciamo casi più gravi di la Banca Popolare di Vicenza e della Banca si ritrovano improvvisamente senza soldi. Ma questo, attenzione, perché poi ne potremmo parlare, non perché abbiano a priori ragione loro, di questo dobbiamo entrare nel merito di questo, però di certo si ritrovano dentro un vortice di eventi di cui non hanno conto neanche le dimensioni, cioè per loro è stata una sorpresa totale, e questo è sorprendente. Persone che erano, come si dice nel gergo tecnico, azionisti, obbligazionisti, investitori in determinati strumenti finanziari, sono rimasti sorpresi di quello che è successo dei loro strumenti finanziari. Vuol dire che non sapevano tanto bene di cosa si parlava. Quindi in realtà c'è bisogno, e come, di educazione finanziaria. Stavamo dicendo, credo sia stato riportato anche nell'intervista, che ci sono state diverse indagini, il libro ne cita una qualche anno fa, noi ne citiamo adesso un'altra recentissima che è stata curata in Italia dalla Banca d'Italia, e poi coordinata con un lavoro analogo degli altri paesi più industrializzati, diciamo, in cui l'Italia, il cittadino medio italiano, il risparmiatore medio italiano è agli ultimi posti tra i 20 paesi specializzati per conoscenza degli strumenti finanziari, ma non di cose complesse. La domanda era per capire se tu avevi un'idea di cosa vuol dire inflazione, di cosa vuol dire un tasso di interesse, se un deposito. Qui nel nord-est i risultati di questo test sono stati un pochino migliori della media nazionale, ma non tanto migliori, e non tanto. E questi, qui stiamo parlando di cose elementari. La cosa più invece complessa è quando il punto che viene citato nel discorso. Allora, noi andiamo, e lo facciamo proprio con il dato che abbiamo riportato. Parliamo del Trentino Alto Adige. Allora, i nostri, noi tutti risparmiatori del Trentino Alto Adige, abbiamo da parte un tesoro di 35 miliardi di euro. Non lo sapevate? Adesso lo sapete. Una parte di voi probabilmente, una parte di noi, una parte dei cittadini del Trentino Alto Adige hanno da parte, forse anche di più, perché questo è il conto che c'è nelle banche, qualcuno ce l'ha ancora nelle poste, il conto qui un po' meno perché ci sono le rurali, sono le Raiffeisen, però se si contassero anche le poste forse sarebbe un altro miliardo in più. Questo è l'ordine di grandezza del risparmio accumulato in tutti questi anni da noi, dai cittadini di questa regione. Si divide più o meno a metà, no, l'Alto Adige è qualcosa di più rispetto al Trentino, ma insomma diciamo a metà, insomma. Questi soldi vanno, per esempio, per due terzi circa nei classici depositi bancari. Per un terzo sono già investiti nei mercati finanziari. Noi più o meno lo sappiamo, sì, perché grosso modo la persona con cui abbiamo parlato ci ha detto, oppure noi gli abbiamo chiesto, beh, comprano un titolo di Stato oppure un'azione. Però non so se ci rendiamo conto esattamente che c'è un terzo del nostro risparmio che in questo momento fa parte di tutte quelle cose di cui parliamo, di cui sentiamo dire ogni mattina alla radio, quando sentiamo che oggi i mercati asiatici sono andati così così, oggi il FTSE MIB, che è una parolaccia che indica l'indicatore, diciamo, di come va la borsa italiana, Piazza Affari, fare a Milano, è andata bene, invece quella londinese è andata male, oppure le borse americane vanno male perché adesso c'è lo scontro con la Cina sui dazi. Ecco, tutto questo mondo, da cui poi dipendono anche scelte economiche, politiche, che riguardano tutto da vicino, è un mondo che accade anche attraverso i nostri soldi, come minimo attraverso questi 12-13 miliardi di euro che noi già abbiamo investito in titoli di Stato italiani, esteri, azioni, obbligazioni, in tutti questi strumenti. Poi in realtà alla fine anche con gli altri due terzi, perché i depositi che noi mettiamo in banca, questo fa sempre un po' impressione, se mi devo dire, però è una cosa non solo vera, ma addirittura sacrosanta, e anche questo bisogna ricordarlo, i nostri depositi in banca non stanno fermi, nel senso che la banca ha ovviamente l'obbligo di restituirci i soldi, di darci i soldi che noi gli chiediamo quando andiamo in banca, mai stato in banca, ma comunque insomma avrei bisogno di tirare 200 euro, te li devono sempre dare, cioè il tuo deposito è lì, è tuo, non ci sono dubbi, tanto è vero che il problema nasce quando la banca è in crisi, allora sono un pericolo anche i depositi, ma contemporaneamente è in base a quelli che la banca ha, come dire, la potenza di fuoco per poi fare la sua attività, cioè se ha del risparmio accumulato da una parte può anche fare i prestiti e quindi decide tutta la sua politica di prestiti e di investimenti in generale, perché non sono solo prestiti, sono anche banche che per esempio, se, siccome non fanno tanti prestiti, investono anche i titoli di Stato. E quindi alla fine i tuoi soldi indirettamente sono investiti in titoli di Stato, anche se non lo sai, non solo quando lo sai. Ecco, tutto questo per non parlare del fatto, citato da Andrea Morales nel libro, del fatto che tra i prestiti di una banca ci può essere la Exxon, che è una grande multinazionale petrolifera, tra i prestiti o tra gli investimenti in generale della tua banca, magari scegliamo una società italiana, che è più realistico per noi, diciamo, ci potrebbe essere l'Eni, anzi c'è sicuramente da qualche parte, o società del settore petrolifero, e magari tu, se fossi stato interpellato, avresti qualche dubbio su questa cosa, perché magari lo stai facendo. Poi dopo ci sono una serie di questioni di cui adesso dovremmo parlare, perché per fortuna c'è un'interazione tra, come dire, i sommovimenti che ci sono tra i risparmiatori e le aziende coinvolte. Per fortuna ci sono state una serie di azioni e di reazioni, anche positive. Quindi non è detto che l'Eni, per dirne una, sia solo una multinazionale del petrolio. Può darsi che abbia anche fatto delle scelte di altro tipo, anche perché anche in qualche caso sollecitate da iniziative di questo genere. Però di sicuro tu, risparmiatore della singola banca, della piccola banca, non sai se questo è accaduto. O caso più clamoroso per certi aspetti, che è stato ugualmente sollevato negli ultimi vent'anni, ormai quasi 30, prima proprio da queste riviste che all'epoca nascevano, Altra Economia, Altra Finanza, dove facevamo i primi giornalini un po' quasi ciclostilati, per cominciare a parlare di queste cose, e che però davano già quelle notizie lì. Poi per esempio dalle riviste missionarie è venuto fuori per esempio il caso abbastanza clamoroso delle aziende, delle banche italiane che finanziano le aziende che esportano armamenti. È un caso importante dove anche lì non si sta parlando di inchieste su chissà quali operazioni illegali, intanto si sta facendo chiarezza su quello che succede legalmente, e che però può anche restare qualche dubbio tra gli risparmiatori. Quindi c'è bisogno di educazione finanziaria in generale, e in modo particolare di educazione finanziaria critica. È uno dei grandi personaggi della, come dire, mediatici degli ultimi mesi è una ragazza di 16 anni, Greta Thunberg. E guardando un momento online, intanto viene fuori che c'è un libro in vendita La nostra casa è in fiamme, è il titolo. È una ragazza sicuramente molto tosta e sulla base di questa vicenda di Greta sono apparsi anche un paio di libri dedicati ai bambini. Uno di questi libri indica l'età dai 10 ai 100 anni, per cui ci entriamo un po' tutti. Sono libri illustrati, quindi riescono anche a dare un'idea abbastanza carina della vicenda di Greta e dei temi che Greta ha sollevato con molta veemenza anche davanti ad assemblee di politici. Ultima cosa sui siti online che servono agli studenti per prepararsi all'esame di maturità e alla prova scritta, ci sono già riflessioni per una traccia sull'ambiente nella prima prova di maturità. Sono già disponibili e quindi si trovano anche le indicazioni che uno studente copia e incolla riesce a utilizzare. A pagina 79-80 a Greta c'è una risposta del mercato finanziario. La finanziarizzazione di ogni attività umana è uno dei principali motori dell'inquinamento. Se l'unico obiettivo è produrre il più possibile al prezzo più basso per realizzare il massimo profitto nel minore tempo possibile, le questioni ambientali non sono prese in considerazione, ovvero sono delle esternalità. La quotazione in borsa delle aziende attive nel settore dei combustibili fossili, ad esempio, è legata al livello di scorte che queste hanno a disposizione. Nel momento in cui si dovesse decidere che buona parte di tali scorte non saranno estratte ma dovranno rimanere nel terreno, rischierebbe di crollare il valore delle imprese del settore, ovvero la loro quotazione in borsa. A cascata gli impatti ricadrebbero su fondi pensione, fondi di investimento e sugli altri risparmiatori che hanno investito in tali società. Uno studio segnala che le perdite potenziali per mantenere il riscaldamento globale entro i 2 gradi centigradi sono stimabili in 20.000 miliardi di dollari. C'è da spaventarsi. Greta è veramente una esternalità assolutamente irrilevante, oppure un giochino, non lei, ma un giochino per tutto ciò che fa spettacolo nella società dei media. La domanda che faccio a Francesco è una domanda retorica: si può essere ecologisti, si può essere pacifisti, animalisti, solidali e trascurare la finanza? È una domanda retorica, quindi non si può ovviamente trascurare la finanza, però diciamo anche che, come abbiamo cominciato ad accennare, qualcosa in questi decenni è successo, per cui intanto una considerazione generale: l'esperienza che abbiamo fatto, che stiamo continuando a fare con queste nuove forme di economia e di finanza, penso soprattutto all'esperienza che purtroppo è stata un po' persa negli ultimi anni, che si costruì negli anni 90 attorno a quello che poi è stato chiamato movimento antiglobalizzazione, che in realtà era un movimento critico con il modo con cui veniva fuori la globalizzazione. Perché mi riferisco soprattutto agli anni 90 e ai primi anni 2000 e poi invece siamo persi? Perché c'è stata una fase molto, purtroppo troppo breve, in cui questi ragionamenti li facevano non soltanto i gruppi dei giovani più radicali, come sono sempre i giovani, ma per esempio anche i power hound, tanto per essere a casa qui da queste parti. Bauerlund aderì alla rete Lidl, che era una di queste reti, Bauerlund per non dire di Coldiretti, per non dire di altre organizzazioni di questo genere. Allora, ma negli Stati Uniti ci furono manifestazioni in cui partecipavano gli autotrasportatori, che non sono proprio dei manifestanti del movimento Noglotto, cosiddetto Noglotto, che non sono propriamente dei campioni di ecologismo, insomma, i camionisti che guidano il tir, anzi quelli in cui si discute adesso dei pedaggi più o meno verdi in autostrada del Brennero, eccetera. Però era un intreccio di cose che avrebbe meritato, e purtroppo invece, infatti di Genova e molte altre cose lo hanno un po' bruciato, avrebbe meritato invece un intreccio, uno sviluppo maggiore. Perché la cosa importante è, per mantenere il riscaldamento globale entro certi limiti, si rischia di perdere 20.000 miliardi. Ma se contemporaneamente avanzano le attività che invece sono compatibili con il mantenimento di un certo clima, o a basso inquinamento o a zero inquinamento, eccetera, forse il rischio di perdere dall'altra parte della bilancia anche un potenziale guadagno invece. Cioè quell'intreccio del movimento degli anni 90, appunto, grossolanamente chiamato global, che poi non era esattamente questi termini, aveva proprio questo in particolare. Per la prima volta fette importanti dei settori economici tradizionali, cioè i nostri contadini, si confrontavano con queste opzioni di possibile sviluppo diverso o di crescita, o qualcuno dice anche di decrescita, nel senso che bisognerebbe anche contenere la crescita, diciamo che bisognerebbe contenerla in certi ambiti e non in altri. Probabilmente in Burkina Faso oggi un po' di crescita non bisogna lasciare guidare, voi avete visitato un paese di quel genere, non bisogna anche della buona vecchia crescita, possibilmente non sporca, però perché no? Quindi questo è un ambito di cose in cui non dobbiamo solo l'argomento per cui un'applicazione ampia degli interventi sia contro il riscaldamento globale sia contro l'inquinamento, perché poi sono cose diverse, complesse, non è tutto neanche la stessa cosa, anche se in alcuni casi coincide, per esempio se si trovano i combustibili fossili si migliora sia la situazione del clima sia quella dell'inquinamento, altri casi sono più complessi, ma insomma sono tutti e due i capitoli. Ma se si interviene su questo, c'è anche la possibilità di sviluppare un'altra economia, l'editore del libro si chiama Altra Economia, un'altra economia che invece riesce ad essere sostenibile. E questo per dire che in borsa e in finanza questo c'è già un pochino, cioè non è più vero che oggi, anche se non abbiamo fatto abbastanza, però non è più vero che oggi se le società petrolifere si presentano e dicono guai a voi se prendete questi provvedimenti che se no c'è una catastrofe, tutti quanti dicono va bene, allora obbediamoci. Non è più così. Per fortuna, grazie anche a queste nostre, grazie anche a quei gruppi di risparmiatori che un po' di educazione finanziaria se la sono fatta e quindi si sono messi in moto, ci sono da un po' di tempo fondi di investimento e strumenti di investimento di quei famosi, una parte dei 35 miliardi del nostro risparmio potrebbe essere indirizzato verso fondi di investimento che fanno delle scelte, che dicono la Exxon no, ma magari l'azienda che invece produce energie rinnovabili sì. Questo c'è già e qualcosa sta producendo, nel senso che oggi perfino nei mercati finanziari, che pure incombono comunque sulla nostra vita in modo sempre un po' preoccupante, ma perfino nei mercati finanziari oggi c'è un elemento di differenziazione, direi dialettica, o addirittura anche di scontro sociale addirittura, nel senso che ci sono già delle scelte che si possono fare oggi da parte di dei risparmiatori in direzione, in certe direzioni e non in altre. Poi intendiamoci, c'è anche in questi casi, poi ci sono anche le aziende, a un certo punto è stato coniato in inglese il termine greenwashing, le aziende che si lavano dei loro aziende inquinanti, pericolose, eccetera, si danno una veste esterna di aziende verdi. Questo c'è naturalmente il rischio che si corre, ma si corre anche col commercio ecosoriale, ma anche con la finanza etica si corre il rischio. Oggi tutte le banche cercano di dire, ma noi un po' di etica cerchiamo di mettercela. Questo però, da un lato bisogna stare attenti a non cadere in quelle che sono dei tutti, diciamo, da prestigiatore. Dall'altro però è significativo, perché 20 anni fa non si preoccupavano di questo. Oggi se ne preoccupano perché vedono che perfino in borsa, se un po' di risparmiatori cominciano a indirizzarsi in una direzione o in un'altra, succede qualcosa, e perfino le loro tasse sono toccate, e quindi bisogna fare qualcosa. A questo punto arriviamo, secondo me, a una specie di piccolo bivio, come dire, operativo, culturale, che poi sinceramente può anche darsi che non sia un vero bivio. E cioè, da una parte, ciò che si può fare acquistando sensibilità, cercando di collegarsi con iniziative, con capacità di informazione, con aspetti che riguardano un impegno civile, diciamo. E dall'altra, chi si pone il problema più ostico del rapporto tra la politica e la finanza. Pagina 123 del libro, scusate, io faccio il maestro e leggo sempre in continuazione. Dal 2008 tutti quanti abbiamo sentito parlare delle regole per riformare la finanza, si dice. Eppure ben poco in realtà è stato cambiato per riformare veramente la finanza. Il sistema bancario ha sviluppato anche delle forme, come dire, di banche ombra, che sono poi collegate con gli istituti di credito più importanti. I mercati speculativi su derivati e valute vanno alla grande, e così pure la finanza super veloce e governata dal computer. Si è fatto ben poco per limitare i rischi di bolle speculative, per ridurre i derivati e per far pagare le tasse là dove si muovono i soldi e le ricchezze. Con l'elezione del Parlamento, del nuovo Parlamento europeo, decade anche la Commissione europea. A capo della Commissione europea c'era Juncker, che tutti quanti sanno che nel momento in cui si trovava a governare nel Lussemburgo aveva favorito diverse compagnie multinazionali perché avessero i loro bilanci nel Lussemburgo in modo da pagare loro una tassa minima intorno all'1% dei profitti e il Lussemburgo potesse migliorare la propria condizione. E molti osservatori trovano che l'Europa è completamente disunita su questo. Ogni Stato cerca di fare le scarpe agli altri. Una delle vicende è legata anche allo sviluppo dell'economia irlandese, per esempio. Dunque, la domanda sarebbe questa. Ok, abbiamo un terreno sul quale si possono sviluppare energie alternative, e Francesco è sull'ottimismo. Lui dice... le banche cominciano, e anche le stesse aziende cominciano ad essere interessate ad una reputazione, ed è questo che può favorire anche certi investimenti a favore dell'ENI, è vero, salvo poi trovarsi che noi investiamo per l'ENI, votiamo contro nel referendum delle trivelle e in un certo senso favoriamo magari poi l'utilizzo dei petroli, eccetera, dei derivati. È vero che c'è questo approccio diverso da parte di molti, però è anche vero che i grandi giochi della finanza, quelli che in qualche modo strozzano la vita di comunità, di stati e di persone, sono ancora fondamentalmente diretti da un potere sul quale noi non abbiamo praticamente controllo. Questo secondo versante è un versante angosciante. secondo me. E la domanda è molto semplice. Rifletto, certo, i greci avevano le loro colpe, così come le hanno per certi aspetti gli italiani nella loro arretratezza, nella loro, come dire, trascuratezza su certi temi. Però è anche paradossale che i pensionati greci abbiano dovuto pagare i pensionati tedeschi che già erano sufficientemente ricchi, perché le loro banche avevano smistato, avevano acquistato attraverso i derivati il debito greco. È paradossale questo. La domanda è proprio questa: c'è qualcuno che si occupa di questi temi? C'è qualcuno che ha, quando andiamo a votare in Europa, un minimo di sensibilità su questo, o tutto il dibattito è sulle frontiere, è sugli scafisti, è sull'accoglienza, eccetera? Ti faccio una domanda spinosa, ma te la devo fare. No, non c'è niente di male. Poi io appunto stasera sto facendo la parte dell'ottimista, perché altrimenti se ti racconto che è tutta una catastrofe, la gente dice: vabbè, allora che facciamo a fare l'educazione finanziaria se tanto non c'è niente da fare? Invece c'è qualcosa da fare. No, invece dico subito su questa cosa qui, poi ci sono un paio di cose interessanti da spiegare. Sì, anche su questa, perfino nella classe politica europea c'è qualche piccola speranza. No, nel senso che qui non parlo di partiti o di schieramenti, parlo del fatto, per esempio, che questo abbiamo fatto un appuntamento di approfondimento più o meno un anno fa, parlo del fatto che c'è un gruppo di parlamentari di diversi partiti che ha fatto una campagna piuttosto importante proprio dopo gli scandali della crisi del 2008, eccetera, compresa la vicenda Lussemburgo-Juncker, per l'armonizzazione fiscale nei paesi dell'Unione Europea. Esiste un gruppo di parlamentari di questo genere, perfino qualcuno della SVP ha fatto una cosa del genere. No, per dire che c'è, cioè, di tutti gli schieramenti, non stiamo parlando di un gruppo di irriducibili, radicali, verdi, di sinistra o cose del genere, uno schieramento piuttosto relativamente ampio, che però non era così ampio da rovesciare questa situazione. Quindi perfino in campo politico c'è chi si è posto questo problema, ma poi alla fine questo deriva dal fatto che appunto non è che necessariamente gli esponenti politici sono dei santi, sono, a volte rispondono effettivamente a degli interessi, per esempio come possono essere gli interessi di piccole imprese, popolazioni locali, eccetera, che effettivamente avrebbero bisogno di queste misure, per esempio per avere più credito invece che perdere soldi nei paradisi fiscali. Quindi a volte sono, anzi spesso direi, sono comunque degli interessi che muovono la possibilità di un'alternativa. Non stiamo parlando del fatto che la gente diventa buona e dice: a questo punto i miei soldi li metterò. Ci sono degli interessi che muovono questo. Per esempio le imprese, tu diciamo, contadini, le piccole imprese, che poi magari sono anche pesticidi, quindi abbiamo sempre queste contraddizioni in mezzo, però possono avere interesse, per esempio, a spingere perché in Europa le risorse della politica agricola siano di una certa dimensione e quindi non si perda tassazione nei paradisi fiscali europei. E quindi alcuni esponenti che magari rappresentano questo mondo sostengono una proposta sacrosanta di, cioè far sparire praticamente, per dirla in modo semplice, di far sparire proprio quelle differenze, quelle caratteristiche di paradiso fiscale di Lussemburgo che hanno consentito a Juncker, quando era primo ministro lussemburghese, di stipulare una serie di accordi di favore con le imprese multinazionali. Quindi c'è perfino nel mondo della politica una spinta in questo senso. Adesso bisogna vedere, purtroppo effettivamente non è l'argomento della campagna elettorale. Se questo gruppo di parlamentari si fosse ripresentato adesso insieme dicendo: noi siamo quelli che, invece ciascuno sa, il suo gruppo fa la sua campagna e parlano delle cose di cui si parla in campagna elettorale, in genere sono. Però per dire, esiste un fatto del genere, quindi. No, volevo appunto, a proposito di questi discorsi, proprio parlare di due cose. La crisi del 2008, giustamente il libro la riconduce alla fine a questa parola strana, che sono i prodotti finanziari derivati. Allora, capire cos'è un prodotto finanziario derivato è una cosa complicatissima, perché sono prodotti complicatissimi, dicendo prima che a dire la verità esiste un modo, ed è per esempio guardare il film di John Landis, che in italiano è stato tradotto Una poltrona per due, l'originale non ricordo come si chiama, che è un film di John Landis di 30 anni fa, dove c'è una scena madre del film che si svolge nel mercato dei prodotti derivati sulle materie prime agricole e minerarie, il mercato di New York, che allora all'epoca anni 90 aveva sede in una delle due torri gemelle, che infatti si vedono a un certo punto passando in una scena del film, e c'è una scena, film tutto da, ci sono Eddie Murphy, Dana Croy, insomma è un film da ridere, dove vi invito a godervelo per quello che è, ma c'è una scena, c'è tutta una serie di vicende finanziarie legate alla vicenda del film, alla vicenda raccontata, e c'è soprattutto una scena quasi didattica, diciamo, su come funziona, su come funzionava 30 anni fa, oggi ormai è già evoluto il mercato, nel caso specifico del succo di arancia concentrato sul gelato, perché uno si aspetta che il succo di arancia che noi compriamo al supermercato sarà prodotto da, chi è prodotto? Dalla San Paolo, cioè Parmalat, Zueg, che è qui anche se adesso è a Verona, insomma questi qui producono il succo di arancia, le arance le compreranno dai contadini, eccetera eccetera, e ci saranno dei problemi tradizionali, problemi di cui abbiamo parlato, per esempio i contadini verranno pagati poco, ci sono le quote da mantenere in Unione Europea, c'è stato un periodo in cui faceva scandalo le arance che venivano distrutte per tenere i prezzi un po' alti, cioè tutti questi problemi qui, e uno diceva sono problemi che conosciamo, ma nessuno ha l'idea del fatto che il prezzo di riferimento delle arance non lo decidono Zueg e i contadini siciliani, ma viene deciso nel mercato dei prodotti derivati, futures e options, del succo di arancia surgelato concentrato, che è il prodotto dietro una serie di titoli finanziari, e questi titoli finanziari vengono quotati in borsa, ci sono dei settori in borsa dove degli operatori che non sono necessariamente interessati, alcuni sono quelli interessati a comprare il succo di arancia per fare il commercio, ma il 90% di quelli che fanno questa cosa sono interessati a speculare sul succo di arancia. Nel film vabbè, succedono alcune cose che potete vedere, ma insomma in generale a trovare, diciamo, un modo di comprare a poco il succo di arancia e venderlo molto, o fare un giro diverso, ma alla fine ottenendo lo stesso risultato. Oggi i prodotti finali, il valore nominale si dice, perché poi c'erano delle particolarità tecniche, ma anzi no, facciamo una cosa di questo genere: il prodotto interno lordo mondiale, cioè qual è la ricchezza che produciamo ogni anno nel mondo, anzi no, facciamo l'educazione finanziaria dall'inizio, il prodotto interno lordo italiano sapete quanto vale? 1600 1700 miliardi di euro. Beh, insomma non c'è male, ciò nonostante si dice che sia troppo poco. È vero, infatti è ancora indietro rispetto a prima della crisi, no, però insomma, per dire, se noi misuriamo tutti i prodotti, beni, servizi prodotti in un anno in Italia, raggiungiamo una cifra di 1600 circa miliardi di euro. Il prodotto lordo di tutto il mondo oggi è credo intorno ai 75.000 80.000, 75, tra i 70.000 e gli 80.000 miliardi di euro, di dollari come preferito, diciamo miliardi di euro per capirci. Ovviamente è una cosa enorme, perché sommare all'Italia tutti gli altri paesi che ce n'ha poco, insomma la cifra è enorme misurata in soldi. Il valore delle borse, valori, cioè degli strumenti finanziari che conosciamo più o meno, di cui più o meno sappiamo cosa sono, titoli di Stato eccetera, è qualcosa che poi dipende da cosa ci metti dentro, ma insomma potrebbero essere 100.000, 150.000, qualcuno dice anche 200.000 miliardi di euro, che già è una cosa che uno non si rende conto. Però guardate che non è strano che sia, non è questa la stranezza, perché alla fine lì, come abbiamo detto, c'è il nostro risparmio, e il nostro risparmio è tanto, E il nostro risparmio è tanto, sono 35 miliardi di soldi per il privato agile, cioè il nostro risparmio alla fine va in questi mercati, e quindi è anche giusto che il risparmio accumulato in tutto questo tempo sia più grande del prodotto che facciamo in un solo anno. Questo non è strano. Quello che è strano è che il valore dei prodotti finanziari derivati è 4 volte quello delle borse, cioè 10 volte quello del prodotto, cioè sono nell'ultima fascicolo della Banca dei Regolamenti Internazionali, 800 mila miliardi di dollari, vabbè, loro dicono in dollari. Allora, è una cifra, non potete neanche immaginare, però 800 mila su 200 mila fanno 4 volte, e 800 mila su 80 mila di prodotto fanno 10 volte. Il punto è questo, cioè quando questi prodotti, che sono titoli, che sono scommesse, titoli di scommessa, sono biglietti in cui tu hai scommesso su, per fare come si faceva una volta, la corsa dei cavalli, è più o meno l'equivalente del biglietto che tu hai preso scommettendo sul cavallo per vincere, oppure sulla corsa dei cani, anche c'è cioè, in posti un po' più poveri dove non si fanno il povero. L'equivalente di questo fatto non sui cavalli ma sui prodotti finanziari. Non solo sui prodotti finanziari, sui prodotti finanziari che dietro hanno le azioni delle aziende, i prestiti delle banche, tutte quelle cose lì, e anche il cacao, il caffè, il petrolio, lo stagno, il succo di arancia concentrato, tutta questa roba è tradotta in prodotti finanziari, e il 90% delle operazioni si fanno perché c'è gente che cerca di guadagnare sulla variazione di prezzo di questi prodotti. Allora, questo è effettivamente il punto chiave per cui quando noi diciamo i mercati finanziari incombono su di noi, sì, è vero, è molto preoccupante la cosa, ma il paradosso è che non è preoccupante perché c'è il grande burattinaio, il gruppo di banchieri, una volta si diceva l'Unione di Zurigo, i banchieri svizzeri, adesso sono un po' decaduti, ce ne sono altri, ma è lo stesso. C'è un gruppo di grandi ricconi che si riuniscono dove? A Davos, nel Kremlin, che decidono di colpire quel. No, il fatto preoccupante è che non è questo, perché se fosse questo basterebbe arrestare quelle 5 persone che protestano di sotto. Faccio per dire, insomma, per banalizzare la cosa. Il fatto clamoroso è che questo è il risultato di scelte di investimento di migliaia e migliaia di operatori che dietro hanno scelte, o non, per essere esatto, non scelte di investimento di milioni di risparmiatori. Quindi è un meccanismo per certi aspetti impersonale. Quando si dice Soros ha scommesso, sì, ogni tanto viene fuori quello che ha fatto il contaccio, ma la cosa problematica è che il meccanismo per molti aspetti impersonale, cioè chi scommette sul succo di arancia concentrato possono essere operatori più diversi, e il risultato è che viene fuori un prezzo che risponde a certe caratteristiche della speculazione, ma magari è enormemente basso per i contadini, o viceversa magari troppo alto per la, può essere un prezzo slegato, diciamo, dalle condizioni reali. Quindi questo sì, e questo è un problema di non facile soluzione, perché anche la politica non è facile intervenire in questo. Quindi la politica ha, da un lato, nel campo politico, da un lato abbiamo delle battaglie da fare esercizio, perché per esempio sulla possibilità che i capitali circolino liberamente, che cerchino un posto fiscale favorevoli, o addirittura che si mescolino, a caso di Anna Kuciak, che si mescolano con capitali neri della criminalità, perché questo è il problema che la politica deve affrontare. Quindi a livello del Parlamento Europeo deve decidere che Lussemburgo non può fare certe cose, questo lo puoi fare, o a livello italiano deve decidere che certi controlli ci vogliono. Sul governare questa finanza che sta sfuggendo al controllo ci vuole qualcosa di più. Cioè ci vuole l'azione politica, ma ci vuole anche l'azione dei risparmiatori che dicono no sul campo, su quel campo. Bene, il libro questo sussidiario per un'educazione critica alla finanza. Quando arriviamo ai derivati capiamo che siamo già agli ultimi anni della scuola superiore, perché è una faccenda molto complessa. Nel libro non si parla del succo d'arancio congelato, bensì si fa l'esempio del grano, che è una questione, come dire, molto più vitale, non per gli coltivatori di arance, ma per tutto il mondo che ruota attorno all'alimentazione. E il problema è proprio questo, che il meccanismo dei derivati, che tu hai definito un meccanismo di scommessa, è completamente slegato dalle condizioni reali nelle quali viene coltivato il grano, viene venduto e utilizzato il grano. Cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui un operatore decide che gli conviene mollare l'investimento sul grano per passare a quello degli smartphone, molto probabilmente viene seguito da una catena di altri investitori che non sono neanche persone, ma sono algoritmi, sono sistemi computerizzati, ed è uno dei problemi che crea ogni tanto questi inghippi favolosi, per esempio anche sulla crisi del 2008, da cui praticamente c'è stato un meccanismo computerizzato che ha perso il ritmo nel momento opportuno. Quindi noi siamo in mano paradossalmente a qualcosa che quasi scavalca le volontà politiche e le volontà finanziarie, quasi scavalca, perché in realtà se la buona Greta dice la nostra casa in fiamme, non me ne frega niente del fatto che voi ci vogliate dare speranza a noi giovani, voglio che voi abbiate paura, ha detto Greta, ed è una cosa giustissima. Porco cane, potete decidere tutto, spendete miliardi per le cose più assurde e le cavolate più mostruose, e noi come utenti ne dovremmo essere consapevoli, perché i cittadini possono votare, ma votano tutti i giorni comprando anche, decidendo dove mettere i loro soldi. E riprendendo quello che tu dicevi a proposito dei politici, nel 2010, riferisce il nostro fantastico libro, a pagina 123 mi sembra, 129, vediamo, nel 2010 c'era un gruppo di parlamentari europei, di diversi gruppi e partiti e orientamenti politici, che hanno lanciato un appello per dire: noi siamo qua, ma non possiamo decidere niente. Dobbiamo trovare un sistema per poter prendere delle decisioni. Quindi il mito di l'Europa ce lo chiede è un mito molto fragile, non è neanche l'Europa, non è neanche il cattivo Juncker o il cattivissimo Soros, ma sta da qualche altra parte. E allora sarebbe sì importantissimo che comunque si rompesse questa palla di vetro, dove noi come pesci rossi nuotiamo inconsapevoli di quello che succede attorno. Io vorrei farvi una domanda, però prima di farvi la domanda voglio dire: c'è speranza anche per voi, nel senso che potete poi tra non molto intervenire con le vostre domande, intervenire con le vostre osservazioni. Vorrei anche ricordarvi eventualmente, prima che voi andate via, che là in fondo c'è un tavolino dove c'è una gentile signora che vi farà i conti, dove si può comprare questo libro con uno sconto di ben 1 euro, quindi se voi volete il 15% andate su Amazon, ma qui l'avete subito in tasca, e quest'altro libro che adesso vi presento, mentre questo è, come dire, un primo passo, qua bisogna essere già un pochino dopo il master, lo devo dire, perché questo libro, che si chiama La guida eretica alla finanza globale, sottotitolo Hackerare il futuro del denaro, è proprio per degli esperti, cioè chi vuole intervenire nella gestione critica della finanza. Ed è un libro molto interessante, l'autore è un giornalista inglese-americano, che riflette sul fatto che comunque non si deve avere un approccio, come dire, paranoico con la finanza. Bisogna arrivarci vicino, la finanza deve essere vista come un incontro quotidiano possibile, nel quale noi non dobbiamo sentirci, come dire, inferiori, ma acquistare una competenza e una familiarità. In fondo anche i finanzieri sono esseri umani, quando si alzano la mattina si devono fare la barba e magari anche la doccia e altre cose, e forse loro stessi qualche problemino esistenziale ce l'hanno, forse anche una coscienza. Comunque il libro è molto interessante ed è un pochino più lungo e costa solo, anziché 14,90, che sarebbe come dire 15, costa solo 14 per chi è fermamente intenzionato. Ok, ultima domanda, poi ce ne sarebbero un altro paio, ma prima daremo magari la parola a loro. Quale sarebbe un primo passo urgente per cambiare le cose? Voglio ricordarvi che Occupy Wall Street è stato nel 2011, tra un po' faremo i 10 anni di Occupy Wall Street. Si è sciolto come la neve di Ortisei tra qualche giorno, speriamo, che adesso ha fatto un metro di neve lassù. Ma si è sciolto. Prima di Occupy Wall Street del 2011, che è nel settembre del 2011, c'era il movimento degli indignatos, no? Maggio 2011, adesso loro più o meno faranno forse il governo, l'hanno fatto anche in Spagna, non che siano cose che sono andate via, hanno lasciato un loro deposito, però è difficile immaginare di essere attivi in questo mondo così complicato. Che cosa si potrebbe suggerire a qualcuno che ha le mani in pasta, al nostro candidato preferito che vorremmo incontrare nelle prossime settimane e gli vorremmo dire guarda che sarebbe utile che tu facessi qualcosa? Allora, credo che debba rimanere questo doppio binario tra le pressioni che facciamo alla politica e l'iniziativa della società civile. Per esempio, alla politica non c'è dubbio che io metterei al primo posto questo tema dei paradisi fiscali e dei trattamenti fiscali. Noi abbiamo un problema fiscale in Italia e negli altri paesi, ciascuno ha la sua opinione sul governo che c'è adesso, su come lo sta trattando, come lo sta trattando l'Europa, 3% il deficit. Però noi abbiamo un problema fiscale in generale e c'è un'evasione fiscale. Non stiamo parlando adesso dello scontrino del barista, parliamo dell'evasione fiscale internazionale, quella importante, che comprende sia meccanismi di elusione. Il meccanismo di elusione è il classico meccanismo di Google, di Facebook, di Airbnb, delle grandi aziende multinazionali del web, le nuove multinazionali che hanno queste lo sapete perché ci sono già per fortuna delle controversie in corso, che hanno queste caratteristiche per cui si considerano, come dire, un po' nel cloud, si adesso, cioè no, non hanno sede da nessuna parte e quindi non pagano tasse da nessuna parte. Sto esagerando, però insomma il meccanismo è molto simile a questo. Siccome sono una cosa molto vaga, che tutto gira per i bit, allora non si sa, mentre invece c'è il problema di tassazione molto seria, ma poi c'è l'evasione che è quella che consente appunto operazioni nei paradisi fiscali, i paradisi fiscali che sono nella stessa Unione Europea. Se scattasse la Brexit perderemmo due paradisi fiscali che non sarebbero più dell'Unione Europea, anche se hanno sempre avuto una situazione ambigua. Ci sono le cosiddette isole del canale, che sono isole presenti tra la Gran Bretagna e il continente, che sono, tra l'altro, hanno uno status giuridico stranissimo perché sono proprietà della corona inglese, non sono Gran Bretagna, sono proprietà della corona inglese, è una cosa che risale al Medioevo, credo, alle origini della monarchia britannica. Però insomma, essendo dentro l'Europa, facevano parte dell'Unione Europea. Adesso appunto sia pur con uno stato strano, sono posti, Guernsey, Jersey, sono posti dove si può costituire una società non pagando niente, e soprattutto si possono depositare soldi pagando poco niente. Quindi paradisi fiscali molto più importanti di Lussemburgo. Lussemburgo è tutto sommato abbastanza sotto i riflettori. Qui stiamo parlando di posti ancora un poco controllati, perché già era uno status incerto quello interno all'Unione Europea, figuriamoci fuori. Quindi questo tema dell'elusione e dell'evasione fiscale io lo metterei al primo posto in questo momento come azione verso i politici. mentre come azione della società civile il problema è proprio riattivare il consumo anche naturalmente, ma anche il risparmio responsabile, quindi attivare maggiormente le iniziative di intanto l'investimento nei fondi in quelle istituzioni che appunto scelgono un'altra strada, e poi anche, come si dice appunto nell'ambiente, l'azione degli azionisti attivi, degli azionisti responsabili. Ci sono organizzazioni anche legate a Banca Etica che cominciano a farlo in Italia, ma negli Stati Uniti si fa già da un pezzo, che organizzazioni che partecipano, che hanno delle azioni anche della Exxon, ma non perché la vogliono sostenere, ma perché così possono partecipare all'assemblea societaria della Exxon e porre a tutti gli azionisti, che in genere sono migliaia, perché in realtà la proprietà delle aziende oggi è diventata molto più fluida, a porre a tutti gli azionisti questi problemi che non ci poniamo. Questa è un'azione di, una sorta di azione di educazione finanziaria su largo raggio che si è cominciato a fare anche in Italia, e che è un modo con cui tu intervieni direttamente sulle grandi imprese, e anche per questo alcune grandi imprese, per ragioni di reputazione magari, per facendolo in modo superficiale, ma insomma cominciano a prendere anche altre decisioni, perché c'è questa azione. Quindi io mi muoverei su entrambi i canali. Una sola battuta su George Soros: devo confessare una cosa che mi renderà molto impopolare, mi è diventato simpatico da quando il governo ungherese l'ho cacciato perché aiutava i migranti. Mi dispiace, ma è così. Bene, a questo punto uno di questi strumenti si muove, se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, e vi prego di essere molto carini dicendoci il nome, eventualmente di che cosa vi occupate se volete, ma questo è molto secondario, e di essere, potete fare sia una comunicazione, anche se breve, e magari anche una domanda se volete al nostro relatore. Grazie. Sì, buonasera, mi chiamo Thomas e abito a Bolzano. Di cosa mi occupo, dato che l'ho chiesto Fabio, diciamo civil courage si dice da queste parti. E vorrei fare al giornalista, cioè Terreri, professionista, una domanda e un'aggiunta, e eventualmente, se fosse possibile, alcune considerazioni su quello che avete detto prima sulle elezioni del falso Parlamento europeo e del fenomeno Greta. Però questo poi mi direte voi se posso fare queste considerazioni, proprio per non rubare altro tempo. La domanda è questa: quando Fabio vi ha chiesto, si può essere ecologisti, ho preso parecchi appunti qua, si può essere ecologisti, animalisti, pacifisti e trascurare la finanza? E ha risposto alla domanda retorica: non si può non occuparsi, giustamente, anche perché si stanno sviluppando da anni altre forme di economie che sono sostenibili. Grazie a un gruppo di risparmiatori che vengono istruiti, e quindi per esempio questa parte di 35 miliardi più in supero può essere investita in modo sostenibile, etico, eccetera. Volevo chiedere, dato che faccio parte di una di queste banche, la Raiffeisen, a livello di proporzioni, se ci sono delle cifre, no? Di quanto investito da una parte e quanto dall'altra. Ecco, questa è la domanda. E l'aggiunta riguarda la scena del succo di arancia concentrato sul gelato, appunto del film Una poltrona per due degli anni Ottanta, perché lei diceva appunto che la scena proprio chiave del film, quella sua finale, si rifaceva alla finanza di allora. Ecco, in YouTube c'è un filmato dove un'associazione di divulgazione economica e finanziaria ha ripreso integralmente quella scena e l'ha aggiornata praticamente ai giorni nostri. Ovviamente l'ha dilatata nel tempo, quindi un po' più lunga, però volevo dare questa aggiunta perché c'è questa informazione precisa. Poi sulle considerazioni mi direte voi. Grazie. Francesco, se facciamo... Possiamo... Intanto su questo sì, a proposito dell'aggiornamento del mercato dei derivati sulle materie prime, in realtà una delle cose è quella che ricordava prima Fabio, oggi ci sono gli algoritmi più delle grida degli operatori, funzionano i computer di più che allora, questa è una delle grandi differenze per cui le scene di quotazione in borsa fatte direttamente dalle persone che non solo in quel film, ma le abbiamo potute vedere insomma in passato, quella cosa, oggi effettivamente ci sono sempre meno e funziona sempre tutto via rete, il che può essere un ulteriore problema per certi aspetti. E quindi grazie comunque della notazione sull'aggiornamento. Sì, dunque le cifre, allora intanto diciamo una cosa, le casse Raiffeisen, come le casse rurali del Trentino, come le banche di credito cooperativo, sono le principali candidate a fare la banca in modo diverso, sono nate per fare banca in modo diverso 100 euro di anni fa, cioè guardare a chi era escluso allora dal sistema bancario, magari vittima della usura, e comunque aveva invece delle potenzialità di crescita, di artigiani, le casse si chiamano casse rurali e artigiani, quindi gli artigiani, i contadini, eccetera. E purtroppo anche le rurali, anche le Raiffeisen, anche le banche di credito cooperativo hanno perso un po' di questa ispirazione iniziale, chi più chi meno, in tutti questi anni, nel senso che con l'affermazione di questa finanza onnicomprensiva e la globalizzazione della finanza, effettivamente anche le banche di credito cooperativo partecipano a questo carosello generale, chi più chi meno, mediamente diciamo un po' meno delle banche tradizionali. Negli ultimi tempi, sempre a seguito delle iniziative risparmiatorie eccetera, qualcosa si è mosso nelle banche tradizionali in generale e nelle banche di credito cooperativo in modo particolare, per cui le cose lì si stanno cominciando a muovere, anche se adesso c'è la nuova incognita del fatto che qui in Appalachia, sul Tirolo, la situazione è un po' diversa, ma a livello nazionale le banche di credito cooperativo sono già state organizzate in grandi gruppi nazionali per una riforma che potrebbero, non potremmo dire che perderanno necessariamente certe possibilità, certe ispirazioni, potrebbero perdere come no, però di certo è uno scenario diverso e delicato. Quindi quando si parla di numeri, non è facile perché in realtà i numeri adesso io ho fatto l'ottimista, però i numeri dei finanziatori, delle iniziative diciamo eticamente orientate sono ancora bassi, cioè sono piccolini in realtà, cioè in Italia si parla di 4-5 miliardi di euro, che sembra una cifra enorme, no? Di investimenti fatti nei fondi etici, nei fondi di banca etica, nei fondi che comunque in qualche modo si pongono qualche problema, sembra una cifra enorme, però come vedete 5 miliardi è appena un settimo del risparmio del solo 38 anni, quindi 5 miliardi in Italia non è una grande cifra, però c'è, prima non c'era. A livello internazionale, quindi anche qui per esempio, le cifre potrebbero, qualcosa c'è, perché per esempio tutto sommato anche i gruppi bancari del credito cooperativo una piccola linea di investimento etico ce l'hanno anche loro. Cassa Centrale per esempio, che organizza le banche, il Casse Rurali del Trentino, è adesso con il nuovo gruppo nazionale 80 casse BCC per l'Italia, ha una sua linea di fondi di investimento, come c'erano tutte le banche eccetera, e ha una linea etica che sta anche crescendo, cioè una linea di fondi dove tu scegli appunto che non investi nella Exxon ma investi nell'altra cosa, non investi nelle armi ma investi in economie sostenibili, però è piccola, comunque va bene, voglio dire, è arrivata mi pare a mezzo miliardo sui 9 miliardi complessivi di investimenti che fa il gruppo Cassa Centrale, fondi di investimento in generale, mezzo miliardo su 9 miliardi, è qualcosa, non è ancora tanto, ecco, quindi sono cose che devono ancora crescere, però qualche spazio cominciamo ad averlo. Sì, chiamo Claudio, sono un socio di Banca Etica della prima ora, e assieme a Francesco devo dire che abbiamo vissuto la parte romantica della finanza etica quando si andava ancora nel sottoscala delle parrocchie a parlare di educazione finanziaria, quindi più di 20 anni fa, e quindi i tempi sono cambiati e, come dice appunto Francesco, ci sono nuovi strumenti, ci sono nuove vie da seguire. Il mio cruccio un po' è quello che riguarda i giovani, perché i giovani oggigiorno si avvicinano alla finanza in modo informale, cioè attraverso internet, e quindi scelgono la banca, scelgono i prodotti finanziari attraverso input che possono ricevere da qualsiasi parte, da qualsiasi fonte. La mia domanda appunto a Francesco è come fare l'educazione finanziaria nei confronti delle persone che usano questi strumenti oggi moderni, questi strumenti di pagamento online, di pagamento tramite il telefonino o quant'altro, e quindi non hanno nessuna possibilità di ricevere un minimo di educazione finanziaria come quella che facevamo noi nelle cantine tempo fa. Grazie. Questo è un campo totalmente aperto, purtroppo ancora abbastanza sguarnito, e tutto quel mondo che una parola di sintesi chiamano fintech, tutta la parte di finanza che ormai gira non solo sui computer, gli algoritmi eccetera, ma addirittura ormai con operazioni di pagamento e tutto quanto che avvengono tutte tra reti telematiche senza nessun passaggio fisico, diciamo, e senza neanche più una carta bancomat o cose del genere. È un mondo che si sta espandendo molto rapidamente, anzi sta facendo concorrenza alle banche tradizionali. Le banche tradizionali sono preoccupate per certi aspetti di questa concorrenza. Cioè Google si è messa a fare banca un pochino, comincia a fare la banca, o almeno alcune cose di quello che fa la banca, e la sua potenza di fuoco, come potete immaginare, è enorme. E quindi c'è un campo da questo punto di vista inesplorato su cui si sta cominciando a lavorare. Allora, diciamo una cosa, che sull'educazione finanziaria appunto la crisi del 2008, la crisi diciamo degli ultimi 10 anni, ha smosso un po' le acque. Anche qui giustamente il libro dice non è cambiato purtroppo il grosso dell'assetto, oggi si continua a speculare sui derivati come si faceva 10 anni fa. Però qualcosa è cambiato, per esempio sull'educazione finanziaria, bisogna dire a livello nazionale, per esempio è stato creato un comitato per l'educazione finanziaria in cui ci sono gli organismi regolatori, Banca d'Italia, l'IVASS per le assicurazioni eccetera, che sta cominciando a promuovere una serie di iniziative nelle scuole e non solo nelle scuole. E noi per esempio come associazione, l'associazione di finanza e sviluppo che io presiedo, che è un'associazione piccolissima, che è in Trentino, Veneto e poco altro, ha come suo lavoro principale questo, l'educazione finanziaria, e tra l'altro abbiamo cominciato in Trentino proprio da un paio d'anni un'attività specifica di educazione finanziaria sul fintech, cioè sulle cose diciamo sul web, compresa poi la storia del bitcoin che a un certo punto è venuta fuori eccetera. E quindi si sta cominciando a fare questo lavoro, però è un lavoro ancora ampiamente inesplorato. Qui ci vorrebbero invece ecco, questo sia un'altra richiesta da fare ai politici da qualche parte, cioè queste per esempio siano materie a proposito della scuola dove vogliono abolire la storia, no, non so cosa, c'è tutta una polemica, e beh, l'educazione finanziaria prende in seguito inglese, quello sì. Prima di dare la parola, ce ne sono due rapidissimamente, forse una cosa un pochino marginale rispetto al discorso che stiamo facendo, ma a Firenze un mese, verso la fine di marzo, si è svolto il Festival dell'Economia Civile, che è una cosa piuttosto grossa, se non altro penso sostenuta dal credito cooperativo, che ha un discorso molto interessante, e tra l'altro a Roma c'è una scuola di economia civile di cui fanno parte persone come Leonardo Becchetti, Stefano Zamagni, Luigino Bruni eccetera, e credo che questo sarebbe un discorso molto interessante da affrontare anche a livello locale, non per imitare o importare un modello, ma per sostenere delle iniziative che probabilmente probabilmente collegandosi con alcuni punti di grande interesse per i giovani permetterebbero di arrivare anche ad un discorso più globale e finanziario. Stefano, pensionato preoccupato, la controprova dell'inquinamento ambientale dovrebbe essere che la crisi del 2008 dovrebbe aver portato a un rallentamento dell'aumento della temperatura. Io non ho mai trovato questo dato. Grazie. Sentiamo il climatologo. No, come lui, cioè, non si va con scherzo, anche io non so. Sì, sì, no, qui si va anche molto sulla... io devo dire che ho un certo rispetto del lavoro degli scienziati, so che oggi sono sbeffeggiati da molte parti, però io ho un certo rispetto del lavoro degli scienziati, quindi non mi azzardo a fare... No, però il ragionamento è giusto, perché al di là delle questioni tecniche, i gradi di temperatura o l'inquinamento, il rallentamento dell'economia, allora per avere un'idea, perché se no uno dice allora a livello mondiale, a livello italiano più o meno abbiamo visto come è andata, insomma c'è stata la crisi, c'è stata la step up credito, poi c'è stata la crisi anche sul titolo di Stato e l'aumento della disoccupazione e tutto il resto. A livello mondiale, per capirci, c'è stato un anno, il 2009, in cui il famoso prodotto lordo mondiale è diminuito, unico caso dal dopoguerra e unico caso tuttora. Quindi effettivamente c'è stato un anno in cui non solo i fatti nostri più vicini, ma a livello globale la produzione è diminuita. Poi negli anni successivi invece è ripresa, ci sono state dinamiche diverse. Allora lì il problema qual è? E il problema è la combinazione a livello mondiale, la combinazione tra dinamiche molto diverse. Noi abbiamo visto la crisi in Europa, poi nel Nord Africa. Tra l'altro sarebbe interessante avere, questo sì è anche un aspetto da sollevare dal punto di vista politico, cosa c'entra l'afflusso dei migranti in Italia con la crisi della Lehman Brothers? Apparentemente sono due cose completamente diverse. Allora posso prendermi un minuto, un attimo? Non pretende di essere una spiegazione esaustiva, però pretende di suggerirvi dei collegamenti che non vengono fatti tradizionalmente e che hanno un loro fondamento. La crisi della finanza statunitense, che poi si espansa in tutto il mondo, deriva dai cosiddetti mutui subprime, che sono non il fatto di aver prestato dei soldi a delle persone che non potevano restituire, ma il fatto di aver costruito dei prodotti finanziari derivati su questa cosa. Perché il prestare dei soldi alle persone che non te restituiscono al massimo mette in difficoltà la banca locale. Il prestare dei soldi e poi costruirci sopra un prodotto speculativo è quello che ha messo in moto il problema. Quando c'è stata la crisi della Lehman Brothers, è cominciata la crisi finanziaria, la speculazione si è spostata per circa un anno, per alcuni mesi, e poi l'ho fatto di nuovo più in là, dai mutui e da quei prodotti finanziari ai prodotti derivati sul cibo, sui prodotti agricoli. Tanto è vero che noi ce ne siamo accorti poco, ma ce ne siamo accorti nel 2009-2010, c'è stato un po' di inflazione da noi, una cosa che oggi non c'è quasi niente, no? 1%, anzi Bolzano passa per essere la città più cara d'Italia, comunque c'è ancora un po' di inflazione, ma a livello italiano ce n'è poca. A livello invece all'epoca si arrivò al 5-6-7%, che è una cosa che non si vedeva qui da queste parti da nessuna. Solo che lo stesso fenomeno provocò l'aumento dei prezzi anche in Tunisia, in Libia, in Egitto, in Siria, dove però non c'era inflazione al 7%, perché la barilla si ti scarica un pochino del prezzo sul suo prodotto, dell'aumento del prezzo che trova a monte, lo scarica un pochino, ma non tanto, perché non vuole perdere i suoi clienti. Invece il panettiere di Tunisi, a cui il grano per ragioni speculative costava improvvisamente di più, non aveva altra possibilità, cioè doveva vendere e il pane non poteva essere più comprato dai tunisini, che infatti si sono ribellati. Poco dopo sono scoppiate le guerre e poco dopo la gente è scappata. Perché? Perché la speculazione si è anche, perché non solo, ma anche perché la speculazione internazionale si era spostata sul prezzo del cibo, e c'è stata un'inflazione a due cifre, non quella pur pesante che abbiamo vissuto noi, ma un'inflazione molto più pesante. Questo per dire le connessioni possibili tra tutte queste situazioni. Quindi, tornando un attimo invece all'inquinamento, allora la connessione è complessa anche in questo caso. Perché? Perché è vero che c'è un rallentamento globale, però ci sono paesi di nuova industrializzazione che stanno crescendo parecchio. Quindi il colpo è stato nel 2009, però poi la Cina, allora la Cina, ci sarebbe un'intera discussione da fare su questo campo, perché la Cina è un mondo di novità e contraddizioni, come sapete, dove la povertà a livello mondiale, noi eravamo abituati, no, con i poveri, 1,5 miliardi, 2 miliardi di poveri che guadagnano meno di $1 al giorno, non ci sono più, ce ne sono meno, per fortuna, e la riduzione è avvenuta quasi solo in Cina, non perché guadagnino $10 al giorno, ne guadagnano 2 adesso invece di 1, però comunque è già meglio. La Cina ha avuto uno sviluppo grande, con tutte le contraddizioni del caso, cioè il fatto che a Shanghai non si respira, non si può respirare, la gente va in giro con le cose, e adesso si stanno ponendo questi problemi, quindi perfino lì l'interesse concreto spinge a cambiare qualcosa, perfino in quelle condizioni dove c'è ancora un regime autoritario. Al tempo stesso è cambiata, è migliorata la situazione di una parte importante della popolazione, ma è peggiorata anche in altri sensi, perché per esempio 1 milione di persone è stato spostato da una certa area per fare un grande lago, per produrre una enorme, per costruire un'enorme centrale idroelettrica che servirà sul fiume Azzurro in Cina allo sviluppo energetico futuro. Quindi questo coacervo di contraddizioni, c'è il fatto che la Cina, l'India e altri hanno comunque provato a crescere ancora, e ci stanno provando con delle buone ragioni, e la Cina in prima battuta brucia il petrolio e il carbone che ha in casa, e la cosa è negativa, sì è negativa, è un problema, sì è un problema, dobbiamo discutere eccetera, però capite bene la complicazione e le connessioni globali quanto sono complesse, quando uno deve porsi il problema di come dicevamo prima, di abbassare il riscaldamento, di chiudere un pochino di centrali termoelettriche, ma di consentire ai contadini cinesi o alle piccole imprese indiane di aiutare, di tirar su e di andare avanti. Quindi deve avere delle alternative energetiche, per esempio, in questo campo. Quindi la questione è complessa, e pur non essendo un esperto, temo che il rallentamento dell'inquinamento e della riscaldamento non ci sia stato, perché continua la spinta alla crescita, giustamente per certi aspetti e con tutte le contraddizioni del caso, la spinta alla crescita di più di mezzo mondo. Bene, così come cerchiamo di limitare il surriscaldamento della sala, dobbiamo limitarci nel tempo. Abbiamo 5 minuti e 2 domande che faranno Claudia e Andrea. Sono Claudio e insegno finanza a Mirce di Bolzano. La ringrazio per il suo intervento e credo che abbia sensibilizzato molto l'audience, anche comunque è stato un momento di riflessione. Volevo solo mettere in evidenza 2 cose. Uno, sul significato di che cos'è la finanza. Sicuramente la finanza ha i suoi aspetti, i risultati finali che possono essere talvolta negativi, ma la finanza ha una parte molto positiva. È uno strumento che poi potrebbe portare benefici enormi a vantaggio della crescita economica, intesa una crescita pulita, quindi investimenti in progetti di carattere appunto più green sulla scia di Greta. Quindi questo è un po' un aspetto, tanto per non lasciare tutto l'audience con questa negatività. La finanza, se utilizzata bene, ha un grande impatto, e in questo contesto c'è anche un libro della finanza e la buona società del premio Nobel di Schiller, che è un bel libro da leggere, perché come un coltello la finanza può essere utilizzata per fare una bellissima statua o per uccidere una persona, fondamentalmente dipende da come si utilizza. Quindi è il comportamento umano che andrebbe controllato e gestito, la politica, il comportamento delle scelte. L'altro aspetto invece sull'educazione finanziaria a Bolzano, volevo dire che qui a Bolzano noi ci stiamo impegnando per l'educazione finanziaria anche nel contesto del fintech verso i giovani, e aperto a tutti chi voglia partecipare. Si svolgono dei seminari ad ottobre, nel mese dell'educazione finanziaria, insieme alla, in questa iniziativa del governo, il governo che conta, abbiamo organizzato una serie di cicli di, per una maggiore sensibilità anche sul territorio di Bolzano. Grazie. Buonasera, il mio nome è Andrea Toto, io mi occupo di ricerca in finanza all'Università di Bolzano. Ecco, la mia una considerazione riguardo un passo che prima il dottor Bonafà ha letto il libro, un passo che parlava di inquinamento, e cito a memoria: finché l'obiettivo resterà produrre la maggior qualità possibile di prodotto al costo minore, l'inquinamento resterà una esternalità. Ecco, io non me ne voglio la sala, devo bilanciare il suo pessimismo, il suo ottimismo, scusi, con un pizzico di pessimismo che trae origine dalla mia indole, no? un po' nera. Io ho insegnato fino a qualche mese fa in un ateneo a Pescara microeconomia. In un libro, potrei anche citarlo, il Krugman, è un libro insomma standard di microeconomia, si spiega a un certo punto il concetto di esternalità negativa. E l'inquinamento è il principale esempio che si dà di esternalità negativa. Il metodo principale per fronteggiare l'inquinamento è l'imposta pigliana, ed è una roba di policy maker. Quindi l'inquinamento è in gran parte, per la quasi totalità direi, un problema di policy, di gestione politica. Ecco, il fatto che noi insegniamo in un ateneo, perché non credo di essere l'unico ad aver insegnato le imposte pigliane, no? Noi negli atenei formiamo i policy maker del futuro. Il fatto di insegnare un sistema banale sulla carta, è un modellino, no? Quello delle imposte pigliane per fronteggiare l'inquinamento, che in pratica consiste nell'imporre un costo marginale a chi produce tonnellate di inquinamento. Se questo non ha un effetto apparentemente, no? Perché stando a Greta, le manifestazioni al riscaldamento globale, all'aria respirabile in molti paesi che sono in fase produttiva, no? Avanzata, come può essere la Cina, no? Nel boom industriale, il fatto che insegnare un metodo microeconomico di policy non porti ad una riduzione del problema, non crede che l'educazione finanziaria possa avere il rischio di essere ancora meno efficace, no? Perché fondamentalmente il movente di un investitore è la massimizzazione del profitto, ecco, quindi che è lo stesso movente che porta un'industria ad inquinare. Quindi in questo caso mi chiedevo come l'educazione finanziaria possa superare nell'educare e nel risolvere, nell'affronteggiare il problema dell'inquinamento, possa educare più che l'insegnamento della microeconomia in un'aula di ateneo. Grazie, perché come vedi avevamo sì il master qui, altro che master, avevamo docenti, professori, eccetera. L'imposta pecuviale, ci dite questo? Sì, infatti no, è una citazione giustamente colta della proposta, in sostanza una proposta fatta da, si chiama così perché c'è un economista che si chiama PB, inglese credo, no? Che in pratica, adesso la faccio grossolano, professore, professore, in pratica dice che bisogna calcolare i costi dell'inquinamento e tassare, tener conto del fatto che ci sono questi costi, e quindi recuperare, diciamo, la finanza pubblica degli introiti per il fatto che uno ha inquinato. È molto grossolano, però non è propriamente una cosa. Senti, però prende l'idea. No, ma il succo della faccenda è questo, visto che siamo agli sgoccioli. Se con Claudio, per esempio, e anche con molti altri, siamo messi a fare una banca etica, è proprio perché pensiamo che le banche ci debbano essere, anzi, che siano fondamentali, perché come dicevamo, il nostro risparmio, che poi viene trasformato in prestito, in finanziamento, eccetera, se indirizzato in una certa direzione, è il motore del miglioramento, diciamo, della nostra vita. Quindi assolutamente cruciale, è lo scopo per cui noi dobbiamo dobbiamo svegliare i risparmiatori e tenerli appunto in casa, comunque aiutarli a capire cosa succede, e proprio la possibilità che possano dare un indirizzo diverso alla finanza, che invece è fondamentale per funzionare. E anche sulla questione dell'accordo e dell'inquinamento, io farei questa considerazione però. È vero, in linea di massima uno dice lo scopo dell'impresa è il massimo profitto, però, allora, abbiamo già detto che oggi conta anche un po' la reputazione, comincia a contare, e questo può essere ben fatto, direi io. Però comincia a essere anche, qui Zamagni, gli altri ci aiutano, comincia a essere anche un modo diverso di parlare di valore. Il valore oggi di un'impresa, quando si parla del valore in borsa, il valore in borsa cos'è? È esattamente la quotazione moltiplicata dal numero delle azioni, quindi l'idea che funzioni. Però il valore, in questi temi che noi solleviamo, può cominciare anche a cambiare. Può essere un valore anche rispondere ad altre esigenze della società, che comprendono anche il profitto dell'impresa, ma non solo. Questa è una sfida possibile, secondo me. Vi ringrazio, e possiamo anche vederci un attimo fuori finché non stanno per chiudere. Naturalmente riceverò un paio di numeri di telefono, perché non finisce qua, ovviamente. Questo è il primo passo. Grazie a voi. Grazie.